Bentornati, bentornati per chi si fosse messo in contatto soltanto adesso su www.webradioluzzi.gimdo.com. Questa è Sulla Linea d'Ombra e stiamo parlando di avvistamenti ufologici nei cieli della Calabria. Ne abbiamo tre in particolare, testimoniate da tanto di fotografie scattate dai nostri protagonisti appunto delle vicende. Io non so che sensazione, che reazione soprattutto potrei avere nell'avvistare un UFO, nell'avvistare nei cieli un oggetto straniero. Onestamente non lo so, io ne parlo molto spesso attraverso questo sito web, attraverso la mia rubrica, mi sembrano cose curiose, cose interessanti, però non so se vedessi effettivamente qualcosa di strano solcare i cieli sotto i quali io passo, non so se sarei tanto tranquilla o se mi fermerei incuriosita, se avessi la prontezza di fotografarla, di testimoniarla appunto con delle prove tangibili, ciò che io vedo. Ad ogni modo, vi vado a parlare di un'altra testimonianza, reperisco i miei appunti, eccoli qua. Ecco, qualche mese prima, esattamente alla fine di settembre, Gianni Termine, impiegato dell'Unical con la passione per la fotografia, aveva girato un video a Roggiano. Roggiano Gravina si parla nella provincia di Cosenza, un paese molto noto. Era sera ed ero rientrato da poco dal mare, racconta. Quando venni improvvisamente attratto da questa luce che transitava in cielo lungo della direttrice nord-est e si spostava verso il mare Ionio. Mi precipitai in casa, ero nei pressi, presi la fotocamera e registrai e scattai quello strano fenomeno. Poi, a un certo punto, quella luce, ben visibile ad occhio nudo, come per incanto, sparì nel nulla. Anche su quel caso hanno investigato gli esperti del CUN. E dall'elaborazione tecnica delle immagini è stato possibile stabilire che l'oggetto appare roteare con diverse gradazioni di colore, derivanti anche dalla densità atmosferica. Le immagini desunte dal filmato evidenziano la tridimensionalità dell'oggetto e la presenza di un alone perimetrale con differenze cromatiche derivanti da temperature diverse fino a raggiungere due volte il diametro apparente. Io qui ho addirittura la fotografia, che è una sfera di luce che è stata ripresa appunto da questo impiegato dell'Università degli Studi della Calabria. E sono due le foto, addirittura una praticamente fa vedere una parte della luce che è nera e un'altra è bianca. Un'altra ravvisa per lo più un quadrato, io adesso ve la sto descrivendo sull'immagine che vedo appunto dai giornali che ho qui davanti a me, e si presenta totalmente diversa dalle immagini che sono state appunto fotografate dalla testimonianza che si era avuta pochi mesi prima. Che si è avuta ultimamente, che magari siano nel periodo di perlustrazione nella nostra zona, che magari è iniziata nel mese di agosto, come abbiamo altre testimonianze dai nostri giornali. Questo non lo so. Comunque ci sono delle foto che vanno a testimoniare appunto questo evento. Molto strano, diciamo, perché solitamente siamo abituati ad avere di questo genere di notizie soltanto dall'America, dove si sa che c'è l'Area 51 e c'è la NASA, che tra l'altro non tutti lo sanno, ma in Italia esiste un centro, non so se adesso con i tagli che hanno infierito su tutto indiscriminatamente sia stato chiuso e quant'altro, c'è praticamente il fratello gemello della NASA, che è italiano, c'è una NASA italiana che adesso non mi ricordo, c'è un centro appunto di ricerca e di studio relativo all'aviazione, ma anche a quella che può essere l'aeronautica, ma anche gli studi stessi relativi agli UFO, centri ufologici. Esiste in Italia anche quest'ente, adesso naturalmente non può avere le stesse finanze che magari ha in America. Prima di darvi l'altra testimonianza, io, siccome ho ospiti in questo momento nella mia stanza mentre sto registrando, io vi lascio ad un brano musicale. Restate con noi, ne parleremo più tardi.